Cara Maria, dimmi adesso come stai. Non ho avuto tempo per iscriverti e già lo sai. Oh, troppi guai, c'è stato troppo rifugio. Ma qua il caldo è infernale già a luglio. E ne arrivano di nuovi carcerati. Celle più piene, nuovi e vecchi disperati. Italiani ed emigrati in attesa di giudizi e condannati. Che ritorna dentro dopo essere stati rilasciati. Stanza 39, quattro letti, cesso in comune. Senza il balcone, questa è la prigione. Oh suoro, liste cose un da preoccupare. Tu pensa al nostro amante e a campare. Che un giorno dovrò pure ritornare, quel giorno i burnute spirre stanno a scantare. Sanno mio, manda magliettine, calze e pure un pantalone. Fammi sto favore, in inverno il maglione. Dai un bacio pure alla mamma, saluta a me cucina e dici pure che a me manca. Stammi bene, ti aspetto in silenzio al prossimo colloquio. Se sentirò il vuoto, stringerò la foto. E lettere dal carcere, lettere dal carcere. Parole che sanno di evasione. Lettere dal carcere, lettere dal carcere. Speranza e illusione, vede rassegnazione. Lettere dal carcere, lettere dal carcere. Parole che sanno di evasione. Lettere dal carcere, lettere dal carcere. Speranza e illusione, fede e rassegnazione. Amore, eri troppo bella quando sei venuta al colloquio, poi tutti quelli ti guardavano. Ti amo da quando ti ho conosciuta. Da qua dentro ringrazio Dio per quando ci presentarono. Tra qualche mese rifaremo l'amore. Ciò mi dà la forza per uscire da sta disperazione. Perché non basta pregare il Signore, se qua dentro poi muore ogni motivazione. Non sono sereno, sono molto agitato. Due giorni fa un ragazzo si è pure suicidato. Non lo conoscevo, ma ho pianto, pianto. Soffriamo qui dentro, ma tanto, tanto. Adesso che ci penso, fai l'assegno all'avvocato. Chiedi soldi a mio fratello quando torna da soldato. Si è innamorato e sono pure contento. Non si sposa se non esco da sta gabbia di cemento. Le guardie non ci fanno fare la doccia per giorni. Sì, proprio loro, bastardi e porci. Io devo fare il codardo, stare zitto, non vedere. Se no finisce che è fuori, non metto più piede. Lettere dal carcere, lettere dal carcere. Parole che sanno di evasione. Lettere dal carcere, lettere dal carcere. Speranza e illusione, fede e rassegnazione. Lettere dal carcere, lettere dal carcere. Parole che sanno di evasione. Lettere dal carcere, lettere dal carcere. Speranza e illusione, fede e rassegnazione. Perdonami, forse non ho capito. No. Se è giusto o sbagliato, amico. E piango da quando sono dentro, perché spero in un impiego. Ma fuori di qui, niente. Un'altra galera fatta da gente che non reagisce, tantomeno guarda e giudica senza un freno. Se ti sento piango nel vuoto, se ti penso capisco che non è un gioco. Stringo mani forti e forse quelle che tocco sono sporche. E vorrei rivedere mio figlio, è piccolo e ha bisogno di me come appiglio. Saluta papà e digli che mi manca. Un tatuaggio già è stato fatto sul braccio. Io amo mamma. Saluta gli amici, sputa gli infami. I primi tanti, i secondi niente nel mio domani. E prego, ma lo faccio con rabbia. E volo basso dentro la mia gabbia. E rasco via lo sporco. Il tocco del perbenismo è soffoco. Rivedrò il sole sorgere nuovamente. Non piangere per me, tanto non fa niente. Lettere dal carcere, lettere dal carcere. Parole che sanno di evasione. Lettere dal carcere, lettere dal carcere. Speranza e illusione, fede e rassegnazione. Lettere dal carcere, lettere dal carcere. Parole che sanno di evasione. Lettere dal carcere, lettere dal carcere. Speranza e illusione, fede e rassegnazione.